Yeah. sore ga pade sagar di sore ga ni sore ga de ni sore ga re re sore ga re sore ga re ni sore ga sagavada bagavada.